bisogna sempre per forza parlare d'amore. Si deve sempre, comunque, far nascere il sole. È necessario far credere di fare del bene. È necessario alle feste donare le rose. Bisogna sempre tentare di farsi accettare. Si deve sempre scrivere solo testi d'amore. È necessario ogni volta mentire al nostro cuore. Ma non sarebbe meglio liberarsi e confessare? Beh, io sinceramente non ne posso più dei 883. Non ne posso più di ciò che fa per te. Non ne posso più di quello che mi dici. Non ne posso più di sentire Anne Gigi. Non ne posso più di cantare certe notti. Non ne posso più di ascoltare quel che ascolti. Non ne posso più di come amore. B come bene. C come cuore. A, B, C hanno preso l'amore, l'hanno rivoltato, pensando che gratuito è come dire vuoto. Hanno negato la pienezza, il suo significato. Ma perché non liberiamo il nostro spirito inquinato? Si va dal prete a chiedere un certificato. Si lotta per un crocifisso che non è attaccato. Ne hanno fatto una ragione di stato, senza capire che non è il vero reato. Beh, io sinceramente non ne posso più di tutta questa gente. Non ne posso più di chi non fa niente per niente. Non ne posso più di domani un altro giorno. Non ne posso più, io non sono di questo mondo. Non ne posso più di chi mente, finge o recita. Non ne posso più di chi pensa che la nostra vita un senso non ce l'ha. Parlarne è veramente un paradosso. Poi sembra di essere degli stronzi.